Buon pomeriggio a Maria Arena, regista del film Il terribile inganno. Benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora, Maria, presenterai al Sempre Fair Cake il tuo film Il terribile inganno. Innanzitutto, quando sarà la proiezione all'interno del festival e come si svolgerà? Domani alle 14 c'è la proiezione, siamo dentro il festival, quindi un orario un po' risicato, però è un calendario da festival, quindi il cinema si fruisce a tutte le ore del giorno. Parliamo invece un po' del film, ovviamente. Partiamo dal titolo. Che cos'è e qual è questo terribile inganno che si svela, diciamo, all'interno del film? Il film racconta un percorso di conoscenza e quindi questa conoscenza porta poi all'affermazione, appunto, che è un terribile inganno il fatto che sia finita, diciamo, la discriminazione di genere, che i diritti conquistati poi una volta per tutte siano stabili, diciamo così, no? E quindi è un po' un inganno il fatto di stare tranquille e avere una società dove la cittadinanza tra uomini e donne sia in qualche modo paritaria. Ecco, questo è un inganno perché ancora oggi in realtà possiamo notare che ci sono delle discriminazioni. Faccio un esempio, uno fra tutte. Diciamo la legge, per esempio, 194, no, sull'aborto, conquistata già negli anni 70, vediamo che è sempre a rischio. Diciamo, gli obiettori di coscienza sono molti, ci sono strutture intere con obiezioni di coscienza che non si trovano solo al sud, che uno magari pensa, ma magari anche al nord. La Lombardia è, diciamo, tra le regioni italiane con una percentuale alta di obiezioni di struttura. Ecco, questa è una cosa. Ci sono discriminazioni nel mondo del lavoro, sappiamo benissimo che le postazioni nelle situazioni dirigenziali sono in scarsissimo numero, diciamo, attribuite alle donne, ma non perché non ci siano, perché è proprio una prassi, no? Una specie di consuetudine consolidata che dura ad essere superata. Insomma, ecco, quindi questo film, attraverso l'analisi che fanno una di meno della violenza, che appunto è giudicata strutturale alla società, questa analisi tira fuori, diciamo, i livelli di questa violenza che poi hanno al suo acme il femminicidio. Quindi il femminicidio è, diciamo, la punta di un iceberg di una violenza che è diffusa e condivisa nella nostra società, è quasi accettata, che si esprime in differenti, a differenti livelli. Ecco, quindi il terribile inganno è il fatto di, per quanto riguarda, diciamo, il film, è aver avuto, diciamo, questa forma di apprendistato attraverso l'analisi di Non una di meno, ha un disvelamento di qualcosa che nella società è presente, che magari però viene dato per scontato oppure occultato, insomma non è così immediatamente percepibile. Come è stato seguire le attiviste di Non una di meno così da vicino per un lungo periodo? È faticoso e entusiasmante. Io ho seguito le attiviste di Non una di meno nella città di Milano, quindi, diciamo, una città anche veramente piena di fermento, di già, di suo, e queste donne che io ho seguito, che poi la cosa che mi ha sorpreso era proprio questa trasversalità generazionale, per cui dalle ragazze di 15 anni fino alle femministe storiche. Quindi questa è anche la novità di questi nuovi femminismi, no? Il fatto che ci sia una comunicazione tra le generazioni e anche uno stare un po' un passo indietro da parte delle generazioni degli anni 70, delle femministe storiche degli anni 70, che quindi ascoltano anche le nuove istanze che vengono portate avanti da Non una di meno. E quindi sì, entusiasmante, soprattutto appunto quello che poi racconto nel film è un percorso di conoscenza. Questa conoscenza è quella che io, diciamo, in qualche modo vi spiego nel film e accompagno lo spettatore, che spessissimo non sa chi è Non una di meno, che cos'è, e quindi a comprendere che c'è ancora bisogno di attivismo. Come pensi che sia cambiato in questi anni il movimento femminista che tu appunto hai potuto seguire da vicino? Ma innanzitutto si parla di femminismi e non di femminismo, perché sappiamo che appunto non si tratta di un partito, per cui quando parliamo di movimento confluiscono all'interno del movimento diverse prospettive che riguardano il femminismo, e questo è molto importante. E quindi il movimento è, diciamo, qualcosa che si muove, che diventa marea, come dicono loro, e che, diciamo, in qualche modo apre la strada e aderiscono quindi poi diverse componenti. Per cui in realtà il femminismo che inizia storicamente negli anni 70, diciamo, però atteggiamenti nei confronti della difesa dei diritti delle donne ci sono già da molto tempo prima, ne parlo anche nel film, parliamo del 700, solo che poi sono state occultate o censurate dalla storia. Nel film si parla di Olympe de Gouges, che è la prima che scrive la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina nel 791, però diciamo lì siamo in un'altra epoca. Ma per tornare al nostro, al secolo precedente, ci sono stati diversi momenti, no? Gli anni 70, poi c'è stato anche negli anni 2000, ci sono stati anche dei movimenti. Questo, in questo momento, ha una potenza molto forte, un coinvolgimento molto forte, anche perché è un movimento globale, cioè c'è tutto il mondo, non è che c'è solo in Italia, e quindi diciamo ha un altro aspetto, che è quello appunto di questa globalità, che in qualche modo poi si ricongiunge sulle stesse tematiche, e a capo di questa c'è proprio il discorso del femminicidio, no? Diciamo alla testa di questa tematica. È stato anche un lavoro di grande introspezione personale, appunto, realizzare questo film, seguire da così vicino delle attiviste. Ma guarda, io quando sono andata all'inizio, l'8 marzo del 2017, mi avvicino appunto al movimento, perché leggo sul giornale che c'era non una festa della donna ma lo sciopero, quindi io lì vado perché dico, oh, se c'è uno sciopero vuol dire che è interessante questo momento, quindi da lì ho subito colto l'analisi, perché loro ne parlavano durante la manifestazione, l'analisi della società che fanno, della violenza che fanno, e a quel punto ho intrapreso un percorso personale di conoscenza. Questo percorso personale di conoscenza l'ho raccontato nel film, cioè è importante secondo me raccontare il femminismo per una donna a partire da sé, dal proprio cambiamento, dalle proprie prese di coscienza, e questo è quello che si vede nel film, cioè una cinquantenne appunto che apprende dalle ventenni, dalle quindicenni, dalle trentenni qualcosa che magari sulla quale non si era soffermata, perché appunto io sono madre, sono lavoratrice, la vita poi va di fretta e uno non si sofferma, e meno male che ci sono le giovani che invece hanno un occhio più lucido su questa società. Quindi questo, no? È il contrario di quello che si dice, affidarsi ai giovani per fare un'analisi, non ai vecchi che hanno altro da fare, magari non pensano più alle analisi di questo tipo. Quindi questo è quello che si racconta al film, mi affido nelle mani di queste giovani e compio un percorso di conoscenza che lo spettatore fa insieme a me, vedendo il film. Perfetto, grazie Maria per averci raccontato il tuo film In terribile inganno, e ci vediamo tutte e tutti alla proiezione al Sanpre Fair Cake. Grazie ancora. Perfetto, grazie, a presto.